Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria, per chi, lo diciamo lungo tutta la settimana, purtroppo lavora ancora, o per chi per fortuna è in vacanza, o per chi non può andare in vacanza, la borsa sta cercando in maniera così un po' altalenante di dare un senso a questa estate. In realtà le preoccupazioni più grosse arrivano sempre dall'Asia e nel caso specifico dalla borsa di Shanghai. Oggi è brutta la chiusura di tutte le borse asiatiche, soprattutto quelle cinesi, perché oltre che Shanghai anche Hong Kong ha perso l'1,7% e Tokyo lo 0,80%. In Europa la situazione è mista, mezzo punto percentuale di calo a Milano, Francoforte meno 0,20, Parigi è leggermente positiva, Londra invariata, l'America è molto incerta, è invariata anch'essa sul Dow Jones, euro quota 1,4227, molto misti anche i titoli, non si segnalano grossi scostamenti, Fondiaria SAI guadagna l'1,8%, Unipol guadagna l'1,4%, Saipem più 1,2%, Snam più 1% come le generali, Buzzi Unicem più 0,5%, Mediolanum più meno 3%, Bulgari pure, il Banco Popolare perde il 2,5% come Intesa San Paolo, Autogrill perde il 2%, Impregilo l'1,90%, Unicredito perde l'1,4% come la Popolare di Milano. L'1,2 lo perde Steam Microelectronics e le CIR, ma anche l'Automatica, Parmalat e Luxottica. Di che cosa parleremo oggi? Beh, vista la cronaca, parleremo della UBS sotto due fronti, cioè l'Unione delle Banche Svizzere, il più grande gruppo bancario europeo per capitalizzazione. Due fronti, uno che rappresenta, come già abbiamo annunciato, un salto culturale per il mondo elvetico. 4.500 nomi di americani che hanno il conto corrente presso la UBS, e dopo un braccio di ferro durato tra il Dipartimento americano e la Banca Svizzera molte molte settimane, per un totale di 10.000 conti correnti in Svizzera. È la fine di un'epoca in cui il segreto bancario per la Svizzera era una vera e propria Bibbia, era una vera e propria dogma. Dall'altra parte parleremo di UBS, perché oggi nel frattempo UBS ha diffuso a livello europeo e poi aggiungendo poi le stime mondiali quanto una persona deve lavorare per comprarsi un panino di McDonald's, il classico Big Mac. E vedo che il tecnico è un po' perplesso, ma in realtà esiste un indice che si chiama l'indice che è sviluppato dall'Economist su quanto costa un Big Mac. In questo caso si va a vedere, si valuta chiaramente il potere d'acquisto, immaginando che il Big Mac sia rapportato poi in generale al costo della vita di un singolo paese, quanto deve lavorare una persona per comprarlo. E poi parleremo dei banchieri d'affari, perché non c'è solo Wall Street, oggi anche la City, dalla City londinese arrivano notizie di stipendi tornati a livelli stellari, come dire, passata la festa, gabbato lo santo, la crisi non c'è più, perlomeno a Wall Street e nella City, e quindi possiamo tornare a darci stipendi milionari, se non da decine di milioni di euro. E sarà l'occasione anche per ragionare su un libro che descrive questa nuova generazione di banchieri, quelli che hanno fatto la finanza globale, globalizzata dagli anni 90 in poi, un libro appena uscito in Italia. Ne parleremo fra pochi minuti. 349-238-6666 per i vostri sms e le altre notizie in breve. Si diceva di Shanghai oggi tra le peggiori, ma anche Taiwan è andata molto male come borse asiatiche, meno 4,4% Shanghai, Taiwan negativa. In sostanza, cioè, tutti i timori sono di una bolla, non solo immobiliare in Cina, anche immobiliare, e timori per banche che sono cresciute tantissimo, ma grazie soprattutto ai soldi statali. In rialzo il petrolio a $71 dopo il calo delle scorte in America, e per il gas c'è un accordo tra l'Australia e la Cina, un accordo record chiuso in realtà ieri da 41 miliardi di dollari, per fornire gas a PetroChina. Lo trovate oggi nell'apertura delle pagine di Finanza del Sole 24 Ore. Comunque, chi se le fosse perse, ricordo che il gas proviene dal giacimento sottomarino Gorgon a 130 km dalle coste dell'Australia occidentale, controllato al 50% dall'americana Chevron, al 25% dall'americana ExxonMobil e all'altro 25% è del colosso petrolifero anglo-olandese Royal Dutch Shell. Praticamente manderanno in Cina 2.200.000 tonnellate di gas liquido all'anno per 20 anni. Dati oggi sul PIL, l'OCSE stabile nel secondo trimestre per i paesi aderenti. L'Italia, sono dati abbastanza noti, comunque meno 4,6%. Complessivamente il calo dei paesi dell'area OCSE, un calo che rallenta rispetto al meno 4,7 del periodo gennaio-marzo. Un altro guru della finanza, Warren Buffett, oggi in un editoriale pubblicato dal New York Times dice: l'economia è fuori dalla fase di emergenza e appare sulla strada di una lenta ripresa. Warren Buffett è stato per molti il guru degli investimenti, della gestione del risparmio, però attenzione, dice sempre Buffett, gli Stati Uniti dovranno fare i conti con tutti gli effetti collaterali delle enormi dosi di cura monetaria che vengono somministrate tuttora all'economia, e quindi tradotto significa debolezza del dollaro, deficit e alto indebitamento dell'amministrazione pubblica americana. E poi arriva Weber, non Ella, non Max, ma Axel Weber. A noi ci fa impazzire Axel Weber perché parla, però non specifica in base a che cosa. Non è un personaggio di secondo piano, è il governatore della Banca Centrale Tedesca, quindi il governatore della più importante banca europea, se diciamo la Gran Bretagna non si offende. Anche oggi è tornato a dire che la ripresa dell'economia tedesca non sarà sostenibile nel secondo trimestre. Hai detto niente. L'economia tedesca infatti non è ancora in grado di camminare con le proprie gambe e rivedrà i livelli del PIL 2008 non prima del 2013. Ha aggiunto sempre Axel Weber che a fine 2010 i disoccupati tedeschi saranno 4 milioni. I segnali di miglioramento, secondo il governatore della Banca Centrale Tedesca, arrivati con il PIL dell'ultimo trimestre, sono in realtà solo frutto degli aiuti pubblici e dei bassi livelli dei tassi di interesse. Caro Axel Weber, l'ha evitato 2 giorni fa, oggi però non è più possibile evitare il nostro gufo. Vorremmo a questo punto anche infatti delle soluzioni, perché insomma dire che la ripresa dell'economia tedesca, che è la prima economia europea, non sarà sostenibile nel secondo trimestre, non si può buttare lì in un'intervista al Die Zeit. Comunque, nel frattempo calano più del previsto i prezzi della produzione dell'industria in Germania, e questa non è una bella notizia perché vuol dire che si vende poco a livello di industria. A luglio sono diminuiti di 1,5% percentuale e di quasi l'8% rispetto all'anno prima, 1,5% rispetto a giugno e l'8% rispetto a un anno prima. La flessione su base annua, quindi anno su anno, è la peggiore dal 1949. Poi un giorno magari faremo anche una puntata su tutti quelli che hanno detto mesi fa che la crisi era colpa dei media, della sfiducia che veniva data dai media, che insomma la crisi era psicologica. Questi sono numeri, cifre tedesche, non italiane, quindi immagino che non sia colpa dei media tedeschi. Allora, l'ultima notizia riguarda di nuovo la Guardia di Finanza, che ha sequestrato nei primi 7 mesi dell'anno beni ai mafiosi, criminalità organizzata in generale, per quasi 476 milioni di euro. 533 denunce a piede libro, 430 kg di sostanze stupefacenti sequestrate e valuta pari a 1.280.000 euro. Non tantissimo, diciamo, visto il giro d'affari. Adesso il primo tema riguarda, o anzi non è un tema, un approfondimento vero e proprio, riguarda il costo della vita e il potere d'acquisto. A noi è piaciuta molto, infatti, questa inchiesta della banca svizzera UBS, e andare a vedere quanti giorni, quante ore, quanto lavoro ci serve ai vari cittadini dei vari paesi europei, ma non solo, per comprarsi un Big Mac, immaginando che il costo del classico panino di McDonald's sia nei vari paesi proporzionato a quello che è il costo della vita media, cioè quindi il costo della carne, il costo dell'insalata, il costo dell'orario, della paga del lavoro. Ecco, andiamo a capire a parità, quindi, di Big Mac, quanto deve lavorare ogni europeo per comprarsene uno. Eh sì, perché praticamente si è scoperto che a Milano e a Roma sono 27 i minuti di lavoro necessari per comprarsi un Big Mac, e a Londra ne basterebbero 14 e 13. Sono 73 le metropoli considerate, quelle con i prezzi più alti è Oslo, ma la classifica è interessante perché rivela anche alcune sorprese. Vediamo se adesso la scheda parte. Quanto dobbiamo lavorare per toglierci lo sfizio di un panino Big Mac? A Milano, a Roma 27 minuti, ma se vivessimo a New York o a Londra ci basterebbero 14 e 13 minuti d'ufficio. A Francoforte ne servirebbero 15, a Parigi 20. Viceversa, per addentare il maxi panino un abitante di Pechino deve mettere in conto tre quarti d'ora di lavoro, mentre un cittadino di Nuova Delhi deve sudarselo con oltre due ore passate alla scrivania. Possono sembrare semplici curiosità, ma confrontando i prezzi di prodotti identici e il livello medio dei salari, la banca svizzera UBS ha stilato una classifica delle città più care del mondo, sia in senso assoluto che in senso relativo. Tra le 73 metropoli considerate, quella con i prezzi più alti è risultata la capitale norvegese Oslo, seguita da Zurigo, Copenaghen, Ginevra e poi Tokyo e New York. Roma e Milano si trovano nella parte medio-alta della classifica, rispettivamente al 17° e 30° posto. Quasi sempre le città più care sono però anche quelle dove gli stipendi sono più alti. I dipendenti più fortunati abitano infatti a Copenaghen, a Zurigo e a Ginevra, ma buste paga ben più pesanti della media si registrano anche a New York, Oslo e Los Angeles. Milano si colloca al 26° posto, Roma al 30°. Le città dove i prezzi sono più distanti dagli stipendi e dunque dove il potere d'acquisto è più basso e la vita è di fatto più costosa, risultano invece le megalopoli dell'estremo oriente come Manila, Mumbai e Nuova Delhi o l'africana Nairobi. Lo studio di UBS sfata anche alcuni luoghi comuni. Chi avrebbe ad esempio pensato che le città dove si lavora di più in assoluto fossero quelle medio orientali, con in testa il Cairo? La capitale egiziana è infatti anche la capitale degli stacanovisti, con una permanenza media in ufficio di 2.373 ore all'anno. In fondo alla classifica ci sono invece le città francesi. A Parigi le ore passate in ufficio si fermano a 1.594. In pratica ogni anno un francese resta alla sua scrivania 32 giorni in meno del collega egiziano. Neppure in Italia possiamo però lamentarci troppo. A Milano le ore di lavoro in un anno sono 1.808, a Roma 1.771, in entrambi i casi più che a Londra e meno che a New York, ma comunque al di sotto della media internazionale, che è di 1.902 ore. Sì, poi su certe statistiche prendiamole con cautela, non basta stare in ufficio per essere produttivi, sicuramente se non si è in ufficio è difficile essere produttivi. Comunque è interessante vedere che al Cairo si stia al lavoro molto più che a Parigi anche a Milano, e che comunque a Milano si stia molto più che a Parigi, in alcuni casi anche più che a Londra. Diciamo che il sospetto l'avevamo avuto, sapendo che poi in Italia delle volte c'è l'abitudine a stare a lungo al lavoro, ma senza che questo porti a un aumento della produttività. E questa è la classifica dell'Economist di oggi. Per quello che invece riguarda il tema delle banche, vedo che già molti di voi ci chiedono: ma quando parlate di stipendi dei banchieri, ci stiamo arrivando tra pochi secondi. Devo solo una risposta a alcuni sms. Perché gufo a Weber? Perché se uno dice che l'economia tedesca non è in grado di camminare con le proprie gambe, visto che sta parlando della prima economia europea, e tra l'altro a cui noi siamo legatissimi come export, facesse anche il piacere di spiegarci come, perché, qualche previsione e soprattutto il che fare. Altrimenti, siccome è la seconda volta in una settimana che lo becchiamo a dare previsioni nefaste, si becca il nostro gufo, tanto non gli cambia nulla, né a lui né al gufo. L'astrologa che fine ha fatto? L'astrologa sarà in vacanza e immagino che avrà sempre il sole, avendo capacità di fare previsioni, tornerà, perché sentiremo anche l'opinione degli astri. Adesso però parliamo di soldi e di chi li gestisce. Soldi, soldi, soldi, tanti soldi, beati siano i soldi, bene amati soldi, perché chi tanti soldi vive come un pascià e piedi caldi se ne sta. Italian Banksters, che sarebbe una crasi tra banchieri e gangster, niente proprio di meno che. Splendori e miserie dei banchieri d'affari di casa nostra. L'autore è Laura, e l'autrice è Laura Serafini. Non domandare da dove provengono, dindi, tanti dindi che nelle tasche fanno din din din. Laura Serafini è una collega del Sole 24 Ore, spesso ci ha raccontato le vicende di Anton Veneta, dei furbetti, delle fusioni Banca di Roma con Unicredit, Capitalia con Unicredit. Laura, buonasera. Buonasera a voi. Allora, che ti è venuto in mente di scrivere un libro sui banksters italiani? Iniziamo a raccontare alcune cose, così facciamo capire a tutti. Il libro in realtà ha 5 profili di famosissimi banchieri italiani che hanno lavorato per grandi banche internazionali, in alcuni casi ancora vi lavorano, però è soprattutto la ricostruzione di come è cambiato il DNA del banchiere d'affari. Allora Laura, non è che i banchieri d'affari fino agli anni 90 in Italia non esistesse, ci sono i nomi storici di Enrico Cuccia, il patron di Mediobanca, Mattioli, l'uomo che creò la Comit, Comit centro culturale negli anni 30 durante il fascismo. Pensate che i giornali stranieri potevano essere letti nella sede della Comit a Milano anche se erano proibiti dal fascismo in tutta Italia. E poi ci sono anche i banchieri d'affari invece più in ombra, la finanza cattolica deviata di Calvi, dello IOR, del Vaticano, di Sindona. Però in generale questi banchieri avevano dei tratti molto molto riservati. Quelli che tu descrivi, adesso facciamo anche i nomi e i cognomi, ma non per mostrare delle accuse, semplicemente perché sono i protagonisti del tuo libro: Claudio Costamagna, Ruggero Magnoni, Federico Imbert, Gerardo Bragiotti, Panfilo Tarantelli, appartengono a una nuova generazione che prende piede negli anni 90. Che differenze ci sono rispetto ai nomi che ho fatto, storici, dei banchieri d'affari italiani? Ma la differenza fondamentale è che questi banchieri di fatto nascono, costruiscono e sviluppano la loro carriera nell'ambito delle banche d'affari americane, quindi nell'ambito di un nuovo modello di fare banca che esplode alla fine degli anni Ottanta e che arriva in Italia in questo periodo e soprattutto inizio anni 90, quando in questo paese fortemente indebitato si comincia a ragionare sulla necessità di vendere i gioielli di famiglia, ovvero le società, le grandi società pubbliche. E diciamo che questi banchieri, quando arrivano sul nostro mercato, sono dei personaggi assolutamente sconosciuti, loro ma anche le loro banche. E anche oggi per molte persone queste sono delle figure di cui si ignora l'esistenza, però ovviamente chi ha un po' di dimestichezza con la finanza conosce quantomeno il nome delle grandi banche d'affari, quindi Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan. Allora, ricordiamo intanto dove lavoravano questi 5 banchieri che tu hai conosciuto, cioè che tu hai utilizzato per descrivere un mutamento, io l'ho definito nel DNA antropologico dei banchieri d'affari. Claudio Costamagna, Goldman Sachs. Ruggero Magnoni, Lehman Brothers, Lehman lo ricordiamo è fallita, cioè, comunque nel tutti. Settembre scorso, Federico Rimbert per JP Morgan Chase, Gerardo Bragiotti prima per Mediobanca e poi per Lazard, e poi Panfilo Tarantelli per Citigroup. Allora, tu hai raccontato un primo elemento chiave. Negli, a fine anni 80, inizio anni 90, come alcuni di voi si ricorderanno, l'Italia, complice un crack finanziario dovuto sostanzialmente a una gestione scriteriata da parte della politica del debito pubblico, il patto Craxi, Andreotti, Forlani, l'indebitamento che cresce per 15 anni, è costretta, viene cacciata la lira dalla SME, adesso la faccio un po' breve, un po' superficiale, è costretta a privatizzare perché altrimenti salta per aria la tenuta del sistema finanziario, deve far cassa lo Stato, e per privatizzare è chiaro che tu non puoi collocare Enel, Eni, Telecom, giusto per citare i casi più noti, le BIM, le banche di interesse nazionale, la Comit, il Credit, la Banca di Roma, non li puoi collocare solo sugli azionisti italiani, non ci sono abbastanza soldi né nei soggetti privati né nei soggetti istituzionali per comprarsi questi, per digerire questi colossi, occorre vendere le obbligazioni, le azioni su base mondiale, e lì arrivano i cinque, diciamo, che tu hai citato, i nostri eroi. Sì, il tema è esattamente questo, cioè il mercato italiano è un mercato, insomma, in italiano ma anche gli altri paesi europei avevano lo stesso problema, molto chiuso, con pochissimi investitori in grado di comprare, tant'è vero che il modello che sino allora aveva sponsorizzato Mediobanca è quello di vendere le azioni ad imprese, imprenditori, amici, in maniera tale che, insomma, sapessero a chi vendere ma poi potessero in qualche modo anche controllare in qualche modo il nuovo azionariato delle società che venivano vendute. Le banche americane, questi banchieri che in Italia le rappresentano, portano un nuovo modello che fa fatica a entrare, ma quando ci riesce esplode ed è tutt'oggi ancora in vigore, che è il modello di andare a pubblicizzare le società di cui si devono vendere le azioni, ma anche di cui si devono emettere titoli di debito come le obbligazioni, sui mercati internazionali, soprattutto quello americano, che è un grande mercato, un mercato che già a fine anni 80 è esploso, ci sono molti investitori istituzionali, c'è la tradizione dei fondi pensione, per cui si riesce a collocare titoli per oggi diremo miliardi di euro, ma insomma migliaia di miliardi di vecchie lire, molto facilmente, molto velocemente, portando a casa parecchi soldi. Ed è questo il motivo che poi alla fine dichiara la vittoria del loro sistema, e che in qualche modo gli consente di inserirsi in una posizione vincente, scalzando anche Mediobanca. La Mediobanca, certo, e la vecchia finanza, i banchieri, diciamo, insomma, le banche d'affari o merchant bank, come volete chiamarle, di una volta. Pensate che nella la prima grande ondata di privatizzazione di questo paese, dal 1993 al 2000, lo Stato italiano ha privatizzato, cioè ha messo sul mercato beni, società sostanzialmente, e industrie pari a 100 miliardi di euro. Questo è l'ammontare di quanto l'Italia ha privatizzato in quei 7 anni. 2,5 miliardi di euro sono andati alle banche come commissioni per aver organizzato il placement, come si chiama con un linguaggio di chi ha studiato, cioè il collocamento di questi titoli. Tu ci stai raccontando quindi che i vari Costamagna, Bragiotti, Imbert, Magnoni, che poi sono molto diversi tra di loro, però avevano come tratto comune, potevano vantare una rete di relazioni, di contatti e di canali con tutti i mercati, con la finanza globalizzata e globalizzanda, per cui erano gli unici a poter garantire allo Stato italiano, nel caso specifico, un collocamento che Mediobanca, abituata ai suoi salotti senza nessuna definizione negativa, ma molto più piccoli, fatti di soggetti più conosciuti, ma anche senza quelle disponibilità di capitali, non avrebbe potuto garantire. E già si nota, Laura, una trasformazione nel ruolo del banchiere, non è più quello che ti aiuta a collocare dei titoli, ma a questo punto diventa consulente di stati sovrani. Assolutamente, diventa un personaggio, tu hai parlato di relazioni e le relazioni sono assolutamente un fattore chiave per il loro successo, perché come fai tu a avere un canale per andare a proporti come venditore delle azioni di una società pubblica? È chiaro che devi fare un massiccio lavoro sui contatti, cioè i contatti all'interno del Ministero del Tesoro, all'interno dei ministeri che contano, all'interno degli esponenti politici che in quel momento hanno diciamo, i poteri decisionali. Per cui tutti questi signori, alcuni perché vengono, la gran parte devo dire, da famiglie benestanti in vista, e questo diciamo anche uno dei fattori di scelta, mm-hmm, assolutamente, e comunque lo vediamo già all'inizio della loro carriera, le conoscenze sono chiave. Molto velocemente, per dare degli esempi così rapidi, Costamagna quando entra sul mercato, la stessa Goldman Sachs quando entra sul mercato italiano, riesce a prendere degli incarichi nel momento in cui arruola Romano Prodi come proprio senior advisor. Romano Prodi in quel periodo non era ancora un politico, era, lo vedremo in precedenza e poi successivamente in questo incarico, alla presidenza dell'IRI. Dalla presidenza dell'IRI, dove tornerà dopo aver avuto questo ruolo in Goldman Sachs, assegnerà poi vari incarichi di privatizzazione a questa banca. Magnoni diciamo deve gran parte della sua fortuna ai rapporti con il gruppo De Benedetti, che poi lo ha consentito di mettersi lavorare insieme a Colaninno, insieme poi sulla grande scalata al gruppo Telecom. Per gli altri possiamo vedere il caso di Imbert, è forse un pochino diverso, perché lavorando prima in Chase Manhattan, che era una grandissima banca americana, riesce ad aprirsi i canali perché fornisce finanziamento alle grandi imprese pubbliche. Quindi dalla prima si instaura anche un meccanismo, Laura, per cui non è più solo il banchiere come in un, diciamo, principe alla Machiavelli che fa la consulente, che diventa quasi elemento di filosofia del benessere del principe, ma è il principe che ogni tanto va a lavorare in banca, nel senso che quando alcuni politici passano, come avviene anche in America, lo sappiamo benissimo, e in altri paesi europei, in alcuni momenti in cui non sono impegnati nell'attività politica vengono assunti come consulenti in grandissimi gruppi bancari internazionali. Questo ha creato molti problemi in America, perché avrete letto che molti ritengono che Lehman Brothers sia stata fatta fallire e Goldman Sachs no, per i rapporti che Goldman Sachs ha sempre avuto con la Casa Bianca, cioè era più protetta. L'allora ministro del tesoro americano, diciamo, ha sempre avuto intrattenuto rapporti con Goldman Sachs, e si dice Lehman Brothers invece non stava simpatica all'amministrazione Bush. Questa è un'ipotesi, ma insomma il rapporto diventa sempre più stretto tra banche politiche. Alcuni di voi ricordano di Mario Draghi, sì, che non è mai stato un politico per quanto mi risulti, però ha lavorato anche lui, ci mancherebbe. Non è stato un politico, però ha avuto una posizione chiave nel Ministero del Tesoro al momento delle privatizzazioni. Certo. Quindi ha avuto un ruolo tecnico fondamentale nelle privatizzazioni, anche qui ricordiamo Britannia. Ma in realtà vorrei tornare al profilo che ne emerge dopo magari le informazioni in meteo, perché questa nuova genia di banchieri d'affari, oltre che avere un orizzonte internazionale globale rispetto ai Cuccia, ai Mattioli e appunto ai Calvi e Sindona, non volendo fare nessun paragone tra i quattro, ma anche uno stile di vita diverso. Cioè il banchiere classico, usiamo solo nomi positivi, quindi Cuccia, Mattioli, ma pensiamo anche a un mitico presidente di una popolare cattolica come quella di Verona Zanotto, alle banche che si rifanno al territorio, avevano sempre uno stile molto austero, quasi ascetico, dicono alcuni. Qui invece siamo di fronte, e lo raccontiamo dopo il meteo, a una generazione di banchieri che fa, come nel Rinascimento, dell'ostentazione la, in qualche modo, concretizzazione del successo e del valore stesso. Soldi, soldi, soldi, tanti soldi, beati siano soldi, bene, ma ti soldi perché? Chi tanti soldi vive come un pascià e piedi caldi se ne sta. Soldi, soldi, vera babbe praschi, ti danno donne, whisky, saluti, figli maschi, perché? Di nuovo a parlare dei banksters, dei banchieri di nuova generazione. Alcuni chiedono: ma hai tagliato corto su Draghi? Ma che tagliato corto su Draghi? Abbiamo parlato di Britannia, del fatto che fosse consulente di Goldman Sachs, del fatto che Mario Draghi, governatore della Banca d'Italia, rappresenti sicuramente quella generazione di banchieri d'affari, forse un po' riduttivo per Draghi, però di nuova genia. Concentriamoci comunque, Laura Serafini, su questi cinque nomi che, ripeto, tu hai usato come esempio, come storie, come filo narrativo, anche perché i vari Costamagna, Magnoni, Imbert sono molto diversi tra di loro, e vale anche per Bragiotti, ci mancherebbe, però, e per Panfilo Tantelli. c'è un tratto comune non solo nel loro ruolo di consulenti, di governi, di istituzioni e con un orizzonte internazionale che spazia dalla City a Wall Street per collocare, per collocare le società privatizzande in Italia, ma c'è anche un modo diverso di concepire, possiamo usare un termine alto, l'etica, l'estetica, come derivazione dell'etica del banchiere? Assolutamente sì, qui è sempre, come dire, il modello americano che impera. Comunque, per dare un esempio molto immediato a quello che tu stai dicendo, c'è l'episodio che riguarda Braggiotti quando era in Mediobanca e quando con l'ex amministratore delegato di Mediobanca, Vincenzo Maranghi, si trovava a parlare di soldi, lui che era un manager, si sentiva dire da Maranghi: guarda che io che sono amministratore delegato guadagno meno di te, perché lavorare in Mediobanca non è un fatto di soldi, è un fatto di prestigio e bisogna comunque sempre tenere conto appunto dell'etica, cioè non bisogna mai cercare di far vedere troppo, insomma, di ostentare questa concezione della ricchezza. Quando Braggiotti ha 10 anni fa lascia Mediobanca per andare a lavorare alla SAR, si trova dalla sera alla mattina a guadagnare, da rispetto ai 200.000 euro che prendeva in Mediobanca, 2 milioni di euro all'anno. E questo perché per gli americani e per le banche americane la bravura di un banchiere si misura in quanto si riesce a guadagnare, e ovviamente uno fa vedere quanto è bravo se fa vedere quanto guadagna, quindi ostenta la ricchezza che ha. Nel libro io racconto molto anche delle ville che hanno questi signori in Italia, all'estero, cavalli, yacht, tutto esattamente, oppure come fanno magari a gara nel comprarsi macchine da 200.000 euro l'una, insomma. Ci sono vari aneddoti, vari sì, episodi, ecco, quello che è importante però è che cambia. Io lo dico a chi sta scrivendo ogni tanto in maniera polemica: Geronzi non appartiene a questa generazione, non è che non ne parliamo perché non vogliamo parlare di Geronzi. Si sta parlando Maranghi, avete fatto bene a ricordare che Maranghi aveva uno stile molto molto Mediobanca, quindi austero, compito, riservato, ieratico, vogliamo continuare a usare aggettivi a confine con la religione, ascetico, cioè quello era il banchiere che parlava poco, si vedeva poco, lavorava dietro le quinte, non in senso negativo, cioè quando un banchiere come Zanotto della Popolare di Verona tesse i rapporti tra il vescovado e il sindaco, sta facendo un ruolo storico, pensate cosa hanno le banche nel Rinascimento, cioè tiene a sé, ritiene che il banchiere, gestendo i soldi della comunità, del gregge, abbia l'obbligo anche di avere una certa etica fortissima e poi di non apparire, di tenere assieme diversi equilibri. Qui parliamo di un'altra cosa, parliamo di banchieri d'affari che sbarcano con una cultura che non è di matrice italiana, è la cultura americana, anglosassone, in cui tu fai da consulente, sfrutti i contatti, i canali sono questi e poi per questo vieni pagato. Emblematico il caso che tu ricordavi dei 200.000 euro di Maranghi, che poi in realtà era rivolto a Braggiotti, e poi il fatto che lui stesso vada a guadagnare 2 milioni di euro in una banca francese come la Lazard. E questo sta a spiegare, e concludiamo con questo, Laura, anche il perché oggi solo 24 ore pubblichi un articolo per cui anche nella City lo stipendio torna d'oro, più 6% gli stipendi dei manager tra giugno e luglio. In America abbiamo già visto mettere da parte milioni di dollari per i prossimi bonus. Laura, c'è una, sì, vuol dire, una filosofia per cui non basterà una crisi per pensare che, o per poter dire che alla fine questo tipo di banchiere d'affari è scomparso. Assolutamente no, perché il tema di fondo resta sempre quello, cioè io riesco a tenere un bravo manager o un bravo banchiere, in questo caso banchiere d'affari significa anche trader, cioè colui che compra e vende strumenti finanziari e in questo modo crea la provvista per una grande banca d'affari o anche per una grande banca tradizionale. Questi trader che muovono miliardi e miliardi di euro ogni giorno, è chiaro che chiedono di essere pagati in proporzione. Nei giorni scorsi sì, è venuto fuori una polemica tra JP Morgan e Barclays, perché Barclays sta offrendo stipendi da capogiro a questi trader, li sta portando via da JP Morgan perché dice me li voglio assicurare perché mi garantiscono grandi volumi di guadagni ogni giorno. È chiaro che finché ci sarà questa logica di dire siccome mi porti tanti guadagni io ti strapago, ci sarà sempre qualcuno che riesce ad alzare la posta e quindi di far scappare scappare un manager, un banchiere o un trader da un'altra banca. Questo è il vero tema su cui bisogna sì, riflettere. Poi il tema è anche com'è che un manager, un trader fa a guadagnare così tanti soldi una banca, se non accollandosi dei rischi che possono essere fatali per la banca stessa e per il sistema, come abbiamo visto, se non diciamo facendo speculazione allo stato puro senza diciamo dare al denaro il senso di così, reinvestimento nella collettività. Ma questo è un altro discorso. Visto però che abbiamo esaltato anche, mi sembra di aver, che fosse chiaro, le qualità del vecchio modo di fare banca, per cui chi dice che stiamo esaltando i banchieri d'affari del suo modello americano ha capito poco, ma diciamo, visto che abbiamo esaltato il vecchio modo di fare banca, il modo in cui si conosce l'imprenditore, si sta sul territorio, si rimettono in circolo i soldi raccolti sotto forma di crediti a chi produce e delle volte anche a chi appunto potrebbe produrre, ha bisogno di sopravvivere, finiamo con una chicca, perché abbiamo trovato, mentre oggi facciamo la ricerca su alcuni un po' di materiale sui banchieri, un'intervista che facemmo a Gian Piero Fiorani. Adesso non vogliamo sparare sulla Croce Rossa, però Fiorani, ve lo ricorderete, insomma, sotto arrestato, poi scarcerato, comunque ancora sotto appatteggiato ad aprile 2008, 3 anni e 3 mesi per associazione delinque, truffa e appropriazione indebita. I clienti inconsapevoli della Popolare di Lodi si trovavano sottratti i soldi. Comunque, sentite Fiorani nell'ottobre 2004 spiegarci come dovrebbe essere il rapporto tra la banca e il cliente. Guardi, può fare sicuramente tanto dimostrando di essere capace di voltare pagina, di scrivere una pagina nuova nel recupero del rapporto cliente-banca, con un ingrediente fondamentale che poi è quello sostanziale che caratterizza l'attività bancaria, cioè il recupero della fiducia del cliente nei confronti della banca, il recupero da parte della banca e dei suoi operatori della capacità di dialogare, di creare un collegamento continuo di comunicazione con il cliente. In questa capacità di dialogo ci sta inserita tutto il discorso della trasparenza delle informazioni, della conoscenza, di dare al cliente la percezione e la consapevolezza degli investimenti che fa, e anche dall'altra parte, argomento molto delicato questo, della capacità che il cliente può avere nel rimborsare i finanziamenti che contrae presso una banca. Questo è un po' il perno del nuovo ruolo tra banca e cliente. Soldi, soldi, soldi, tanti soldi, beati siano i soldi, bene, ma i soldi perché? Beh, mitico Fiorani, parlare della trasparenza e della fiducia. Laura Serafini, buone vacanze, grazie. Il libro, lo ricordo ancora, si chiama Italian Bankster, Splendori e miserie dei banchieri d'affari di casa nostra, Fazzi Editore. Di nuovo in diretta, ancora qualche messaggio polemico. Non avete citato la consulenza di Gianni Letta a Goldman Sachs. Va bene, lo facciamo tranquillamente, non è un problema nel 2007, se non ricordo male. Il problema era chiarire come poi queste grandi banche d'affari diventino un po', se qualcuno ricorda la storia, quello che Rothschild fu per Carlo V, cioè diventano dei finanziatori del principe, c'è un rapporto che si intreccia con la politica in maniera molto molto forte, e ricordare che questo stile americano di banchieri consulenti delle istituzioni che ostentano anche la loro potenza, la loro ricchezza, è arrivato in un periodo molto chiaro, molto specifico, quando partirono le grandi privatizzazioni per cercare di salvare le casse dello Stato. Adesso però passiamo alla cronaca, ossia alla borsa. Meno 0,5% sul FTSE MIB, meno 0,4% sul FTSE All, Parigi invariata, meno 0,3% Francoforte, Londra meno 0,1%, l'America meno 0,1%, poco mosse quindi le borse oggi, come sempre le commentiamo con i colleghi di Radio Cor, Il Sole 24 Ore, Corrado Poggi, buonasera. Buonasera. Partiamo da Bulgari, meno 3,5%, Mediolanum meno 2,6%, Intesa meno 2,4, come il Banco Popolare, il 2% lo perde in pregilo, Autogrill meno 1,80, Parmalat meno 1,4 come Luxottica, l'Automatica meno 1,2 come la Popolare di Milano e Unicredito, ma anche ST Microelectronics l'1% lo perde CIR. Fronte opposto, Unipol più 1,5 come Fondiaria SAI, Saipem più 1,20, Snam più 0,80 come Generali, Alleanza mezzo punto percentuale di rialzo. Chiudo con i migliori e i peggiori: investimenti e sviluppo più 11,5, la Doria più 11,3, Cell Therapeutics più 7,2, fronte opposto anche qui Arena meno 4,7, poc'altro Mariella Burani Fashion Group meno 4,25%, Nokia meno 3,71%. Mi sembra di poter dire che su Fondiere Assai continuano gli acquisti. Unipol e poi altri titoli, tra cui mi interessava soprattutto oggi il calo pesante di Bulgari. Sì, Bulgari è da alcuni giorni in forte saliscendi, è salito notevolmente nei giorni scorsi dopo la trimestrale di Swatch, che aveva anche aumentato le stime per l'anno. Oggi è scesa probabilmente perché è peggiorato anche un po' l'outlook per il mercato americano. Nelle scorse ore gruppi come Saks hanno riportato i dati di vendita di luglio e i dati sono molto negativi, specie proprio per Saks, che ha riportato un meno 15% delle vendite, essendo un operatore del calibro, cioè dello stesso tipo di tipologia di Bulgari. È chiaro che c'è stata una ripercussione sull'andamento del titolo sulla nostra borsa, quindi Bulgari ha chiuso il ribasso del 3,52%. Ancora Fonsai, Fondiere Assai, bene dopo i dati, dopo i rialzi di ieri e le indicazioni, Saipem più 1,20. Io non vedo moltissimi spunti, per carità, siamo anche a metà agosto, non è che uno debba inventarsi degli spunti. Eni più 0,3, un po' indebolita dall'abbassamento dell'obiettivo di prezzo a parte di Bear Stearns, però ripeto, a me gente che è fallita e continua a dare obiettivi di prezzo mi fa un po' ridere. E penso a Bear Stearns, ma non solo. Mentre tra chi perde, vediamo oltre a Bulgari, Mediolanum meno 2,6, tutto il comparto bancario, e in realtà Corrado è stato oggi debole, ha subito un po' di realizzi, Intesa diciamo meno 2,4 come il Banco Popolare. Sì, sono, come dicevi, realizzi, perché nei giorni preoccupa molto l'inversione di tendenza della borsa di Shanghai, che si teme che possa generare una nuova ondata di ridimensionamento di molti titoli che sono corsi molto in questo periodo. È chiaro che il settore bancario e quello assicurativo anche sono fra quelli che hanno realizzato dei forti guadagni e quindi sono anche più soggetti a un ritorno di nervosismo. Quindi oggi c'è stata una presa di beneficio da parte degli investitori e i titoli del comparto bancario ne hanno sofferto. Sì, diciamo che il timore più grosso, e qui faccio gesti scaramantici, è che per i mercati ci possa essere il disegno possa essere non quello di una V, quindi crollo come abbiamo visto settembre-ottobre, adesso una L, lenta risalita, ma la temutissima W, cioè che a questo rialzo arrivato, iniziato con il 9 marzo e proseguito fino a qualche giorno fa, possa non reggere alla prova della riapertura delle fabbriche di settembre-ottobre, quindi mi riferisco soprattutto alla parte cinese e tedesca. Grazie intanto a Corrado Poggi, giornata appunto molto interlocutoria e piatta oggi sulla borsa, ma sono arrivati gli elementi finali per capire quanti nomi e quanti conti correnti UBS renderà noti al fisco americano dopo un braccio di ferro storico che ha dell'epocale. Soldi, soldi, tanti soldi, beati siano soldi, bene, ma ti soldi perché? Chi tanti soldi vive come pascià e piedi caldi se ne sta. 4.450 clienti americani per un totale di 10.000 conti correnti, ma tra l'altro gli americani dicono a questo punto avremo le informazioni sostanzialmente su tutti i conti correnti che ci interessavano, anche se era circolata la voce di una richiesta che potesse arrivare fino a 52.000 conti correnti, visto che sono quelli tutti i conti correnti dei cittadini americani nella UBS. La cosa più interessante però è che emergerebbero da queste informazioni anche i nomi di altre banche svizzere, e c'è il timore che diventi un domino. Lino Terlizzi, buonasera. Buonasera. La voce di Radio 24 e la firma del Sole 24 Ore quando parliamo di Svizzera. Allora, mi sembra che il fronte UBS si sia chiuso, gli svizzeri dicono il segreto bancario non è stato violato, a noi sembra di sì, ma vabbè. Qua il fronte potrebbe essere Credit Suisse, Julius Baer, cioè stanno emergendo i nomi di tutto il gotha bancario elvetico. Ma dunque sono in realtà due partite separate, perché diciamo è vero che il fronte UBS si chiude con questo accordo che rispetta sostanzialmente le previsioni della vigilia, cioè in Svizzera le indiscrezioni dicevano circa 4.500 nomi e sono in effetti circa 4.500. Poi dopo dall'America si aggiunge, sono circa 10.000 conti, questo vedremo, no? Però i nomi sono quelli, e d'altro canto il fisco americano aveva in effetti ufficializzato nei mesi scorsi la richiesta di 52.000 nomi. Quindi è in sostanza un po' il compromesso che si vedeva, che permette agli Stati Uniti di fare un passo avanti significativo per quel che riguarda la lotta non soltanto alle frodi ma anche all'evasione fiscale, ottenendo una collaborazione da parte della Svizzera che in passato non sempre c'era stata certamente, e che permette però alla Svizzera di consegnare questi nomi attraverso i suoi meccanismi giuridici di assistenza, e quindi sostanzialmente di dire: è vero, abbiamo allentato il segreto bancario, però il segreto bancario c'è ancora. E quindi è una sorta di 50-50 da questo punto di vista. Poi vedremo quali saranno gli sviluppi per che riguarda il segreto bancario più in generale, e ecco la seconda partita, se vi sono altre banche che però diciamo non fanno parte di questa partita, altre banche svizzere, ma anche, questa è la voce che corre sul mercato americano, anche altre banche europee che magari non hanno il segreto bancario svizzero, ma presso le quali magari dei contribuenti americani non avevano regolarizzato la loro posizione. Ecco, tu dici, è ovvio che si fa buon viso cattivo gioco, e l'UBS, lo stesso governo svizzero, ha detto il segreto bancario è rimasto inviolato. Qui andiamo indietro nel tempo, andiamo indietro al nazismo, alla fucilazione, alla pena di morte per tutti i tedeschi che avessero portato soldi in Svizzera, e in effetti decine di tedeschi, non solo ebrei tedeschi ma anche tedeschi non ebrei, furono fucilati perché scoperti a portare soldi in Svizzera. Però voglio dire, in Svizzera si capisce che con la crisi che c'è stata, tener botta sul segreto bancario e allinearsi quasi ai paradisi fiscali è quasi non di moda, si va un po' controcorrente? Io direi di sì, tant'è vero che secondo me quello che si considera poco è che quello che sta succedendo ora non è altro che un ulteriore gradino di un processo già iniziato in precedenza, i cui sviluppi più recenti, importanti, iniziano in marzo, quando la Svizzera aderisce sostanzialmente ai criteri dell'OCSE sulla lotta all'evasione fiscale, un passo senza precedenti, perché dopo le pressioni della stessa OCSE, degli Stati Uniti, dell'Unione Europea, la Svizzera ha dato la sua adesione, ha quindi abbassato la soglia del segreto bancario, che è ancora in vigore in effetti in molti altri segmenti, ma su questa si è abbassata. Prima la Svizzera, seguendo le sue leggi, collaborava solo caso per caso sulle frodi fiscali, ora collaborerà, e adesso lo si vede anche con UBS, caso per caso, ma però i casi sono numerosi, e anche sull'evasione fiscale. Poi erano già stati, secondo passo importante, secondo me, erano già stati consegnati circa 280 nomi nei mesi precedenti per permettere, insieme al pagamento di una multa da 780 milioni di dollari, l'uscita dell'UBS da un eventuale processo penale, quindi processo penale non ci sarà, adesso non ci sarà neppure quello civile. Poi ancora, in sintesi, la rinegoziazione da parte della Svizzera con gli Stati Uniti e con altri 11 stati del cosiddetto trattato sulla doppia imposizione fiscale, sì. In sostanza, al di fuori del gergo tecnico, il fatto che anche qui la Svizzera attraverso questo trattato riconosce una maggiore collaborazione sull'evasione fiscale. Quindi direi che è un processo iniziato tempo fa con questa ultima accelerazione dovuta anche al caso UBS. Bene, fa piacere sapere comunque che anche la Svizzera sente quello che si chiama il segno dei tempi. Grazie a Lino Terlizzi. Soldi, soldi, soldi, tanti soldi, beati siano soldi. Allora, una puntata in cui di soldi ci siamo occupati molto, da Italian Banksters ai soldi degli americani presso UBS, alla borsa. Vedremo domani cosa ci riserva la giornata ferragostana, diciamo, dal punto di vista dell'economia e della finanza. Volete sapere, libro e autore, Laura Serafini, Italian Bankster, Fazzi editore, Splendori e miserie dei banchieri d'affari di casa nostra. Da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.